Mentre leggevo in giardino, cosa che la prozia non avrebbe concepito che potessi fare se non di domenica, giorno in cui è proibito occuparsi di cose serie e in cui lei non cuciva. In un giorno feriale mi avrebbe detto: «Come fai a divertirti ancora a leggere? Non è mica domenica», dando al termine divertimento il senso di bambinata, di perdita di tempo. La zia Léonie si intratteneva con Françoise aspettando l'ora di Eulalie. Le annunciava che aveva appena visto passare Madame Goupil senza ombrello, col vestito di seta che si è fatta fare a Châteaudun. «Se deve andare lontano prima dei vespri, c'è caso che lo inzuppi ben bene». può darsi, che voleva dire può darsi di no», diceva Françoise, che non voleva scartare del tutto la possibilità di un'alternativa più favorevole. «To», diceva la zia, battendosi la fronte, «mi viene in mente che non ho poi saputo se arrivate in chiesa dopo l'elevazione. Bisognerà che mi ricordi di chiederlo a Eulalie. Françoise, guardate un po' quella nuvola nera dietro il campanile e quel brutto sole sulle Ardesie. Oh, sono sicura che la giornata non finirà senza pioggia». E non poteva continuare così, faceva troppo caldo. «Più presto sarà, meglio sarà, perché fino a quando il temporale non sarà scoppiato, non mi andrà giù la mia acqua di Vichy», aggiungeva la zia, nella cui mente il desiderio di accelerare la discesa dell'acqua di Vichy prevaleva infinitamente sul timore di vedere Madame Goupil rovinare il vestito. «Può darsi, può darsi. No, il fatto è che se piove sulla piazza non c'è modo di ripararsi. Come? Già le 3!» esclamava ad un tratto impallidendo. «Ma allora i vespri sono già iniziati e ho scordato la mia pepsina. Adesso capisco perché la mia acqua di Vichy mi restava sullo stomaco». E precipitandosi su un libro da messa rilegato in velluto viola con fregi d'oro, dal quale nella fretta lasciava sfuggire alcune di quelle immagini bordate da un pizzo di carta giallognola che segnano le pagine delle festività, la zia, mandando giù le sue gocce, cominciava a leggere alla svelta i testi sacri, la cui comprensione le era lievemente offuscata dall'incertezza di sapere se la pepsina, presa tanto tempo dopo l'acqua di Vichy, sarebbe stata ancora in grado di acciuffarla e farla scendere. Le 3! È incredibile come passa il tempo! Un piccolo colpo sul vetro, come se qualcosa l'avesse urtato, seguito da un'ampia cascatella leggera come di grani di sabbia lasciati cadere da una finestra al piano di sopra. Poi la cascatella si estendeva, si uniformava, assumeva un ritmo, diveniva fluida, sonora, musicale, fitta, universale. Era la pioggia. «Ecco, Françoise, cosa vi dicevo? Come viene giù? Ma mi pare d'aver sentito la campanella della porta del giardino. Andate un po' a vedere che può essere là fuori. Con un tempo simile». Françoise ritornava. «E Madame Amédée, la mia nonna, ha detto che andava a fare un giro. E sì che piove forte». «Oh, non mi stupisce affatto», diceva la zia alzando gli occhi al cielo. «Ho sempre detto che ha una testa fatta a modo suo. Meglio che sia fuori lei e non io in questo momento». «Madame Amédée fa sempre il contrario di tutti gli altri», diceva Françoise con dolcezza, riservandosi, per quando sarebbe stata solo con i domestici, di dire che secondo lei la nonna era un po' tocca. «Ecco, è passata la benedizione. Eulalie non verrà più», sospirava la zia. «Si sarà spaventata per il tempo». «Ma non sono le 5, Madame Octave, sono solo le 4:30. «Le 4:30? E sono obbligata a tirare sulle tendine per avere un misero raggio di luce. Alle 4:30. Mancano 8 giorni alle rogazioni. Oh, mia povera Françoise, bisogna che il buon Dio sia proprio in collera con noi. Già, la gente ne combina troppe al giorno d'oggi. Come diceva il mio povero Octave, ci si è dimenticati del buon Dio. E lui si vendica». Un vivo rossore animò le guance della zia. Era arrivata Eulalie. Sfortunatamente, appena introdotta Eulalie, rientrò Françoise e con un sorriso che aveva lo scopo di mettersi all'unisono con la gioia che non dubitava le sue parole avrebbero procurato alla zia, articolando le sillabe per mostrare che, malgrado l'uso del discorso indiretto, riferiva da buona domestica le stesse parole di cui s'era degnato servirsi il visitatore. Il signor curato sarebbe lieto, felicissimo, se Madame Octave non stesse riposando e potesse riceverlo. Il signor curato non vuole disturbare, e giù di sotto gli ho detto che si accomodi in salotto. In realtà, le visite del curato non procuravano alla zia quel gran piacere che Françoise immaginava, e l'aria di giubilo a cui credeva di dover atteggiare il volto ogni volta che le toccava annunciarlo non corrispondeva esattamente al sentimento della malata. Il curato, uomo eccellente con il quale mi rammarico di non avere parlato più a lungo, perché, anche se non si intendeva di arte per niente, conosceva molte etimologie, abituato a dare ai visitatori di riguardo informazioni sulla chiesa, aveva addirittura intenzione di scrivere un libro sulla parrocchia di Combray, la stancava con infinite spiegazioni, tra l'altro sempre le stesse. Ma quando poi capitava così, proprio insieme a quella di Lalì, la sua visita diventava francamente sgradevole per la zia. Avrebbe di gran lunga preferito approfittare liberamente di Lalì e non averli tutti e due in una volta, ma non osava rifiutare di ricevere il curato e si limitava a far segno a Lalì di non andarsene insieme a lui, che l'avrebbe trattenuta un po' da sola dopo che lui si fosse congedato. «Signor curato, ma cos'è questa cosa che m'hanno detto che un artista ha installato il cavalletto dentro la vostra chiesa per copiare una vetrata? Cioè, posso dire di essere arrivata alla mia età senza avere mai sentito una cosa simile. Ma cosa va mai cercando la gente al giorno d'oggi? Cioè, è la cosa più brutta che c'è in tutta la chiesa». Beh, non arriverò a dire addirittura che sia proprio la cosa più brutta che c'è, perché se ci sono a Saint-Hilaire delle parti che meritano di essere visitate, ce ne sono altre proprio vetuste nella mia povera basilica, l'unica in tutta la diocesi che non sia stata restaurata, eh? Mio Dio, il portale è sudicio e decrepito, ma tutto sommato ha un certo carattere maestoso. Passi ancora per gli arazzi di Esther, che io non vorrei nemmeno per due soldi, ma che per gli intenditori vengono subito dopo quelli di Sens. Riconosco, d'altra parte, che in quegli arazzi, accanto ad alcuni particolari un po' realistici, ce ne sono altri che testimoniano un vero spirito di osservazione. Ma non mi si venga a parlare delle vetrate. Che senso ha mantenere delle finestre che non fanno luce e confondono perfino la vista con quei riflessi di un colore che non saprei definire? In una chiesa dove non ci sono due lastre del pavimento che siano allo stesso livello, e si rifiutano di sostituirmele col pretesto che sono le tombe degli abati di Combray e dei signori di Guermantes, antichi conti di Brabant, gli antenati diretti dell'attuale duca di Guermantes e anche della duchessa, che è una damigella di Guermantes che ha sposato il cugino. La nonna, che a furia di disinteressarsi delle persone finiva col confondere tutti i nomi, ogni volta che si pronunciava quello della duchessa di Guermantes, sosteneva che dovesse essere una parente di Madame de Villeparisis. E tutti scoppiavano a ridere. Lei tentava di difendersi adducendo come prova una certa lettera di invito. Mi sembrava di ricordare che ci fosse un po' di Guermantes là dentro. E per una volta io ero con gli altri contro di lei, non potendo ammettere che ci fosse un legame tra la discendente di Geneviève de Brabant e la sua amica di collegio. Guardate Roussainville. Oggi non è più che una parrocchia di fittavoli, sebbene in passato quella località abbia avuto un grande sviluppo grazie al commercio dei cappelli di feltro e delle pendole. Non sono sicuro dell'etimologia di Roussainville. Sarei propenso a credere che il nome primitivo fosse Rouville, sì, Radulfi Villa, come Châteauroux, Castrum Radulfi. Ma vi parlerò di questo un'altra volta. Bene, la chiesa ha delle vetrate superbe, quasi tutte moderne, e quell'imponente entrata di Luigi Filippo a Combray, che sarebbe più al suo posto qui a Combray, e che vale, dicono, quanto la famosa vetrata di Chartres. Proprio ieri parlavo con il fratello del dottor Perspier, che è un intenditore, e la considera un capolavoro. Ma, come diceva quell'artista, che tra l'altro sembra molto compito ed è, a quanto pare, un autentico virtuoso del pennello, eh? Che cosa ci trovate dunque di così straordinario in questa vetrata che è ancora più scura delle altre? «Oh, sono sicura che se lo chiedeste a Monsignore», disse pigramente la zia, che cominciava a pensare che si sarebbe sentita stanca, «non vi rifiuterebbe una vetrata nuova?» «Contateci, Madame Octave», rispondeva il curato, «ma è stato proprio Monsignore a mettere sulla bocca di tutti questa disgraziata vetrata, dimostrando che rappresenta Gilbert Mauvais, signore di Guermantes, discendente diretto di Geneviève de Brabant, che era una damigella di Guermantes, nell'atto di ricevere l'assoluzione da Saint-Hilaire. Ma non vedo poi... dov'è Saint-Hilaire? Ma sì, nell'angolo della vetrata. Non avete mai notato una dama vestita di giallo? Bene, quello è Saint-Hilaire, che in certe province chiamano anche Saint-Hilier. Saint-Hilier... e persino nel Jura Saint-Hilly. Queste diverse corruzioni del nome Sanctus Hilarius non sono del resto nemmeno le più curiose tra quelle che hanno subito i nomi dei beati. La vostra patrona, per esempio, la mia buona Eulalie, eh? Santa Eulalia, sapete cosa è diventata in Borgogna? Molto semplicemente Saint-Eloi. È diventata un santo. Che ne direste, Lalì, se dopo morta facessero di voi un uomo? Oh, il signor curato ha sempre voglia di scherzare. Il fratello di Gilbert, Charles Begge, principe Pio, ma che, avendo perduto presto il padre, Pepin l'Insensé, morto per le conseguenze della sua malattia mentale, esercitava il potere supremo con tutta l'arroganza di una giovinezza a cui è mancata la disciplina. Se in una data città non gli andava a genio la faccia di qualcuno, faceva massacrare tutti, fino all'ultimo abitante. Gilbert, per vendicarsi di Charles, fece bruciare la chiesa di Combray, la chiesa primitiva di allora, quella che Théodebert, lasciando con la sua corte la dimora di campagna che aveva qui nei paraggi a Tibersi, Théodebertiacus, per andare a combattere i Burgundi, aveva promesso di costruire sopra la tomba di Saint-Hilaire se il beato gli avesse procurato la vittoria. Non resta che la cripta, dove Théodore vi avrà fatto scendere, perché Gilbert ha bruciato tutto il resto. In seguito sconfisse lo sventurato Charles con l'aiuto di Guillaume le Conquérant. Il curato pronunciava Guillaume, ed è per questo che molti inglesi vengono in visita qui. Ma non sembra che abbia saputo conciliarsi la simpatia degli abitanti di Combray, perché questi si avventarono su di lui all'uscita della messa e gli tagliarono la testa. Del resto Théodore offre ai visitatori un libricino, no? Con tutte le spiegazioni. Ma la cosa incontestabilmente più straordinaria della nostra chiesa è la vista che si gode dal campanile. È grandiosa. Certo, a voi che non siete più troppo gagliarda, non consiglierei di salire i nostri 97 gradini, esattamente la metà del celebre Duomo di Milano. Ah, c'è di che stancare una persona più robusta, tanto più che bisogna salire piegati in due, se non ci si vuole rompere la testa, e coi vestiti si spazzano tutte le ragnatele della scala. In ogni caso dovreste coprirvi bene, aggiungeva senza accorgersi dell'indignazione della zia all'idea che la si ritenesse in grado di salire sul campanile, perché una volta lassù tirano certe correnti d'aria. Alcuni sostengono di aver sentito il freddo della morte. Eppure, la domenica ci sono sempre comitive che vengono anche da molto lontano per ammirare la bellezza del panorama e se ne vanno via incantati. Ecco, per esempio, domenica prossima, se il tempo si mantiene, ci trovereste gente di sicuro, perché sono le rogazioni. Bisogna dire del resto che da lì si gode un colpo d'occhio favoloso, con certi scorci sulla pianura che hanno qualcosa di particolare davvero. Quando il tempo è limpido, si può vedere fino a Verneille. E soprattutto si abbracciano con un solo sguardo cose che di solito si possono vedere solo separatamente, no? Come il corso della Vivonne e i fossati di Saint-Cys-le-Combray, dai quali è separata da una cortina di grandi alberi, o anche per esempio i vari canali di Jouy-le-Vicomte, Gaudiacus vice comitis, come sapete. Ogni volta che sono andato a Jouy-le-Vicomte ho visto un tratto di canale, poi, svoltando in una strada, ne vedevo un altro, però non vedevo più il precedente. Cioè, avevo un bel metterli insieme nella mente, ma non mi faceva un grande effetto. Dal campanile di Saint-Hilaire, invece, è un'altra cosa, è tutto un intrico di canali che avvolge l'abitato. Solo che non si distingue l'acqua. Si direbbero delle grandi fessure che dividono così bene la città in quartieri da farla somigliare a una torta con le fette che stanno ancora insieme ma sono già tagliate. E l'ideale sarebbe trovarsi contemporaneamente sul campanile di Saint-Hilaire e a Jouy-le-Vicomte. Il curato aveva talmente affaticato la zia che appena se ne fu andato era stata costretta a congedare Eulalie. «Tenete, mia povera Eulalie», diceva con un filo di voce tirando fuori una moneta da un borsellino che aveva a portata di mano. «Ecco, perché non mi dimentichiate nelle vostre preghiere? Oh, ma Madame Octave, non so se devo. Sapete bene che non è per questo che vengo qui», diceva Eulalie, ogni volta con la stessa esitazione e lo stesso imbarazzo, come fosse la prima volta, e con una parvenza di scontento che divertiva la zia, ma non le dispiaceva. Infatti, se un giorno Eulalie, prendendo la moneta, aveva un'aria un po' meno contrariata del solito, la zia diceva: «Non so che cosa avesse Eulalie, le ho dato pur sempre il solito, ma non aveva l'aria contenta». «Ah, direi che non ha proprio di che lamentarsi», sospirava Françoise, che aveva una certa tendenza a considerare spiccioli tutto quello che le dava mia zia per lei e per i suoi figli, e tesori follemente sperperati per un'ingrata, le monetine messe in mano a Eulalie ogni domenica, ma con tale discrezione che Françoise non riusciva mai a vederle. Non che Françoise volesse per sé il denaro che la zia dava a Eulalie. Era già abbastanza soddisfatta di ciò che mia zia possedeva, sapendo che le ricchezze della padrona innalzano e valorizzano agli occhi di tutti anche la sua domestica, e che lei, Françoise, era famosa e stimata a Combray, a Jouy-le-Vicomte e dintorni, grazie ai numerosi poderi di mia zia, le frequenti e prolungate visite del curato e lo straordinario numero di bottiglie d'acqua di Vichy consumate. Lei era avara soltanto per la zia. Se avesse amministrato lei quel patrimonio, cosa che sarebbe stato il suo sogno, l'avrebbe preservato dalle iniziative altrui con ferocia materna. Non avrebbe trovato niente da ridire se la zia, che lei sapeva inguaribilmente generosa, si fosse lasciata andare a fare donazioni, ma purché i destinatari fossero gente ricca. Forse pensava che costoro, non avendo bisogno dei regali di mia zia, non potessero essere sospettati di volerle bene in maniera interessata. D'altra parte, doni offerti a persone con posizione economica elevata come Madame Sazerat, Monsieur Swann, Monsieur Legrandin, Madame Goupil, persone dello stesso rango della zia e che stavano bene insieme, le sarebbero sembrati far parte degli usi di quella vita strana e brillante della gente ricca che va a caccia, dà dei balli, si scambia visite e che lei ammirava sorridendo. Ma non era più la stessa cosa se i beneficiari della generosità della zia appartenevano a quelle che Françoise chiamava persone come me, persone che non sono niente più di me, e che erano quelle che lei disprezzava maggiormente, a meno che non la chiamassero Madame Françoise e non si considerassero meno di lei. E quando vide che, malgrado i suoi consigli, la zia faceva di testa sua e buttava via il denaro, così almeno credeva Françoise, per delle creature indegne, cominciò a trovare ben miseri i doni che le faceva mia zia a confronto con le somme immaginarie prodigate a Eulalie. Non c'era nei dintorni di Combré una fattoria così grossa che Françoise non ritenesse che Eulalie avrebbe potuto facilmente acquistare con tutto quello che le fruttavano le sue visite. È vero che Eulalie faceva la stessa stima delle ricchezze immense e nascoste di Françoise. Di solito, dopo che Eulalie se n'era andata, Françoise profetizzava malignamente sul suo conto. La odiava, ma anche la temeva, e si riteneva in dovere di farle buon viso quando era presente. Françoise si rifaceva dopo la sua partenza, senza mai nominarla, a dire il vero, ma proferendo oracoli sibillini o sentenze di carattere non meno generale di quelle dell'ecclesiaste, ma la cui destinazione non poteva sfuggire a mia zia. Dopo aver spiato da dietro la tenda se Eulalie avesse chiuso la porta, i leccapiedi ci sanno fare, andare a fare le sfanziche. Ma pazienza, il buon Dio li punisce poi tutti un bel giorno, diceva con lo sguardo obliquo il tono insinuante di Joas, che non pensa che è adatta lì, quando dice «la felicità dei malvagi come torrente scorre». Ma quando era venuto anche il curato, e la sua visita interminabile aveva esaurito le forze della zia, Françoise usciva dalla stanza dietro Eulalie e diceva «Vi lascio riposare, Madame Octave, avete l'aria così stanca». E la zia non rispondeva nemmeno, esalando un sospiro che sembrava dovesse essere l'ultimo, gli occhi chiusi, come morta. Ma appena Françoise era discesa, quattro scampanellate violentissime risuonavano per la casa e la zia, ritta sul letto, gridava «E c'è andata via, Eulalie? Ci credete che ho dimenticato di chiederle se Madame Goupil è arrivata a messa prima dell'elevazione? Presto, corretele dietro!» Ma Françoise ritornava senza aver potuto raggiungere Eulalie. «Oh, che rabbia!» diceva la zia, scuotendo la testa. «L'unica cosa importante che volevo chiederle!» Così passava la vita per la zia Léonie, sempre identica nella dolce monotonia di ciò che lei chiamava, con affettato disprezzo e profonda tenerezza, il suo piccolo tran-tran, preservato da tutti non solo in casa, dove ognuno, avendo sperimentato l'inutilità di consigliarle una migliore igiene, si era poco a poco rassegnato a rispettarlo, ma anche in paese, dove a tre strade da noi l'imballatore, prima di inchiodare le sue casse, faceva chiedere a Françoise se la zia non stesse riposando. Una volta però quell'anno quel tran-tran fu turbato, come un frutto nascosto che fosse giunto a maturazione, senza che nessuno se ne fosse accorto, e si fosse staccato spontaneamente dal ramo, sopraggiunse una notte il parto della sguattera. Siccome i dolori erano intollerabili e a Combré non c'erano levatrici, Françoise dovette uscire prima dell'alba per andare a cercarne una a Tibersy. La zia, a causa delle grida della ragazza, non poté riposare e sentì molto la mancanza di Françoise, che benché la distanza fosse breve, era tornata solo molto tardi. Così, quel mattino, la mamma mi disse «Vai a vedere se la zia ha bisogno di qualcosa». Entrai nella prima stanza e attraverso la porta aperta vidi la zia coricata sul fianco che dormiva. La sentii russare leggermente. Stavo per andarmene piano piano, ma il rumore che avevo fatto doveva essersi insinuato nel suo sonno e averne cambiato la marcia, come si dice per le automobili, perché la musica del suo russare si interruppe un attimo e poi riprese su un tono più basso. Quindi si svegliò e volse a metà il viso che allora potei vedere. Esprimeva una sorta di terrore. Doveva evidentemente aver fatto un sogno spaventoso. Dalla posizione in cui era, non mi poteva vedere, e io me ne stavo lì, non sapendo se farmi avanti o andarmene. Ma lei sembrava avere già recuperato il senso della realtà e riconosciuto la falsità delle visioni che l'avevano spaventata. Un sorriso di gioia, di devota riconoscenza verso Dio, che concede alla vita di essere meno crudele dei sogni, le rischiarò debolmente il viso. E con quell'abitudine che aveva presa di parlare sottovoce tra sé quando si credeva sola, mormorò: «Dio se l'ho dato, l'unico fastidio che abbiamo è la sguattera che partorisce. Io che vado a sognare che il povero Octave era resuscitato e voleva farmi fare una passeggiata tutti i giorni». La sua mano si tese verso il rosario sul tavolino, ma il sonno che le stava tornando non le lasciò la forza di raggiungerlo. Si riaddormentò tranquillizzata e io uscii in punta di piedi dalla stanza senza che né lei né nessun altro siano mai venuti a sapere quel che avevo sentito. Quando dico che all'infuori di avvenimenti molto rari, come quel parto, il tran tran di mia zia non subiva alcuna variazione, non parlo di quelli che, ripetendosi sempre identici a intervalli regolari, non facevano che introdurre dentro l'uniformità una sorta di uniformità secondaria. Così, ogni sabato, siccome nel pomeriggio Françoise andava al mercato di Roussainville-le-Pin, il pranzo veniva anticipato per tutti un'ora prima, e la zia s'era abituata così bene a quella deroga settimanale alle sue abitudini che teneva a quell'abitudine esattamente come alle altre. Ci aveva fatto così bene la mano, come diceva Françoise, che se avesse dovuto un sabato aspettare per pranzare l'ora solita, ne sarebbe stata disturbata, come se in un giorno qualsiasi avesse dovuto anticipare il pranzo all'ora del sabato. Quell'anticipo del pranzo, del resto, conferiva al sabato per tutti noi un carattere particolare, indulgente e alquanto simpatico. Nel momento in cui di solito resta ancora un'ora da vivere prima della pausa del pasto, si sapeva che tra qualche minuto avremmo visto arrivare dell'indivia precoce, un omelette di favore, una bistecca immeritata. Il ripetersi di quel sabato asimmetrico era uno di quei piccoli avvenimenti interni, locali, quasi civici, che nelle vite tranquille e nelle società chiuse creano una sorta di legame nazionale e diventano tema preferito delle conversazioni, delle battute di spirito, dei racconti esagerati a piacere. Sarebbe stato il nucleo già pronto di un ciclo di leggende se uno di noi avesse avuto la vocazione epica. Fin dal mattino, prima di vestirci, senza alcuna ragione, per il piacere di provare la forza della solidarietà, ci si diceva l'un l'altro con buon umore, con cordialità, con patriottismo: «Non c'è tempo da perdere, non dimentichiamoci che oggi è sabato». Mentre la zia, conferendo con Françoise e sapendo che la giornata sarebbe stata più lunga del solito, diceva: «E se gli faceste un bel pezzo di vitello, visto che è sabato?» Se alle 10:30 qualcuno distratto, estraendo l'orologio, diceva: «Coraggio, ancora un'ora e mezzo prima del pranzo», ognuno di noi era estasiato di potergli dire: «Ma cosa dite? Dove avete la testa? Dimenticate che è sabato». Un quarto d'ora dopo se ne stava ancora ridendo e ci si riprometteva di salire a raccontare alla zia quella dimenticanza per farla divertire. Il volto stesso del cielo sembrava mutato. Dopo pranzo il sole, consapevole del fatto che era sabato, bighellonava un'ora di più nell'alto del cielo. E se qualcuno, pensando di essere in ritardo per la passeggiata, diceva: «Ma come? Soltanto le 2?» Nel veder passare i 2 rintocchi del campanile di Saint-Hilaire, che di solito non incontrano ancora nessuno nelle strade deserte per il pasto di mezzogiorno o per la siesta, lungo il fiume vivo e bianco che anche il pescatore ha abbandonato, e trascorrono solitari nel cielo vuoto, dove non restano che poche nuvole pigre, tutti gli rispondevano in coro: «Ma no, vi sbagliate, è che oggi abbiamo mangiato un'ora prima. Lo sapete che è sabato, no?» La sorpresa di un barbaro, chiamavamo così tutte le persone che non sapevano cosa avesse di particolare il sabato, il quale, essendo venuto alle 11 per parlare con mio padre, ci aveva trovati a tavola, era una delle cose che avevano più rallegrato Françoise in vita sua. Ma se trovava divertente che il visitatore sconcertato non sapesse che noi il sabato andavamo a tavola prima, trovava ancora più comico, pur simpatizzando in fondo al cuore con quel rigido sciovinismo, che mio padre, lui, non concepisse l'idea che quel barbaro potesse ignorarlo, e come unica spiegazione al suo stupore di vederci già a tavola gli avesse risposto: «Ma si capisce, è il sabato». Giunta a questo punto del racconto, Françoise si asciugava lacrime di ilarità e per accrescere il piacere che provava, prolungava il dialogo inventando quello che aveva risposto il visitatore, al quale quel sabato non spiegava nulla. E noi, lungi dal lamentarci delle sue appendici, non ne avevamo ancora abbastanza e dicevamo: «Ah, mi sembrava che avesse detto qualcos'altro. Era più lunga la prima volta che l'avete raccontato». Perfino la prozia abbandonava il lavoro di cucito, alzava la testa e guardava al di sopra dell'occhialetto.